a pane, burro e rock and roll. Sono le 7:03, le 7:30 spaccate. Qualche problema? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Benvenuti alla trasmissione radiofonica con in esclusiva Mr. Trombetta. 335-100-7777. Tanti come sempre, un abbraccio ad Oscar, un saluto a Fabio, gruppo d'ascolto degli psicologi. Se non esiste lo fondo all'istante, l'hai appena fondato, caro. Gian 75 da Genova, piuttosto che lavare scale, verrei lì sotto la radio a correre, bravi. Fabio, ti prego, smettila di scriverci. Soprattutto queste cose, abitanti di Spezia, spezzatini, Como, comodini, Bari, baristi, mi fermo qui che è meglio, grazie. Gruppo d'ascolto in mutande, dalla tazza ai metalmeccanici, Diego, Pontedera. Tino presente, ci segnala per il prossimo film The Blues Brothers. Un abbraccio anche a Mato, che chiede se la scaletta è blindata, un po' sì, perdonaci. Mattia da Imola sta rientrando dal mercato ortofrutticolo di Bologna, sveglia alle 3:30, siamo con te fratello. No, anche la mail, scusate, devo salutare queste che hanno scritto da prima di tutti. Gruppo d'ascolto delle 7 del mattino, le rammendine di Prao coi bigotti, ovvero le operaie che oppongono resistenza contro chi giudica il rock, caporeparto bigottone con la pancia e l'occhialone che ascolta Radio Maria. Aia! O peggio ancora latte e miele. Aia. La Pan, la Mary, la Pat e la Lore. Bella lì! Era patetico, bella lì, eh. È per voi, ragazze! Janis Joplin! Baby! Come on! Come on! Cry Baby, Janis Joplin. Oh yeah, che roba ragazzi, eh? Come vi trattiamo? Vi trattiamo da signori. Allora, roviniamo subito tutto, come è solito, di pane, burro e rock and roll. Trasmissione che va a picchi, sì. Allora, si chiama Ascolto Frazionato. Così vi chiamano, amici là fuori, i tecnici, gli studiosi della radio. Ovvero l'ascolto che c'è a quest'ora del mattino per problemi di lavoro, di portare i figli a scuola, insomma tutte le cose che state facendo in questo momento non vi permette solitamente di riuscire a sentire tutte e due le ore del programma, ok? Quindi, secondo questi tecnici, voi, tu che mi stai ascoltando adesso, fondamentalmente non sei mai riuscito ad ascoltare anche la seconda ora, ok? Succede questo: almeno una volta alla settimana gli sfortunati della seconda ora si beccano una rubrica che si chiama "E se i Beatles fossero nati a Napoli?" Oppure, cambia sempre il nome della rubrica, "E se i Beatles fossero nati a Poggibonsi?" Capito? E c'è io, Freak, e il nostro stagista, autore, redattore, produttore Isaac Rizzi. Suoniamo un brano dei Beatles cantandolo in italiano. Questa è una cosa terribile che ascoltano gli amici della seconda ora. Spadino ci tiene a proporla anche a voi della prima ora, quindi vi faccio ascoltare la replica della versione "Noi possiamo farcela" in originale "We Can Work It Out" dei Beatles, ora della band Gli Scarabatti di Pane, Burro e Rock and Roll. Ragazzi, mi dispiace, ma Spadino ci tiene. 1, 2, 3, 4. Devo continuare a parlare fino a quando proprio non ce la farò più. Tu corri il rischio di pensare che il nostro amore possa presto finire. Noi possiamo farcela, noi possiamo farcela. Potresti sbagliare, ma continuare a credere di aver ragione. Noi potremmo farcela, tirar dritto, oppure dirci ciao e buonanotte. Noi possiamo farcela, noi possiamo farcela. La vita è troppo breve e non c'è tempo per litigare, cara amica mia. Ho sempre pensato che sia un crimine, perciò te lo richiedo. Ma prova a vederlo dal mio punto di vista. Tanto solo il tempo mi dirà se ho torto o se ho ragione. Ma finché tu la penserai a modo tuo, c'è la possibilità che potremmo separarci tra non molto. Invece possiamo risolvere il problema, possiamo farcela. Noi possiamo farcela, noi possiamo farcela, noi possiamo farcela, noi possiamo farcela, farcela, farcela, farcela. Diciamo farcela e non farsi. I Beatles l'hanno pensata così. Noi possiamo farcela. A volte credo che noi di Pane, Burro e Rock and Roll in realtà non ce la possiamo fare. yes. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stone. What a drag. Too many snacks. Now I've drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gonna raise some cap to bed. Oh, is that concrete all around? Or is it in my head? I'm a good man. All I can do. Hey, Moose. Carry the news. Oh, yes. Boogaloo-doo. Sound off. Carry the news. Assolutamente no. Una notizia assolutamente fondamentale. Grazie alla redazione che ci segnala in questo 18 di ottobre un compleanno fondamentale per noi della radio. Certo, anche perché era il 18 ottobre del 1954. Aspetti, 54. Le dice è nato Fricantoni. Colpo di scena. Ha quasi la sua stessa età. Esatto, ma che cosa? Di cosa stiamo parlando? La prima radio a transistor. Colpo di scena, le vecchie radio avevano invece i valvoloni. Nel 1954 entrarono i commerci transistor. D'altra parte uno non poteva portarsi in giro delle radio a valvoloni, quindi... Esatto, quindi... Un passo fondamentale per la radiofonia. Quindi molto appropriatamente gli scienziati inventarono la prima radio a transistor. Cosa accadde? Beh, furono due aziende americane, mi sono documentato. Ovvero? La Regency e la famosissima Texas Instruments, che misero in commercio la prima radio a transistor, che fu battezzata TR1. Che fantasia. E pesava 350 grammi, leggerissima, funzionava a pile, ecco. E andò immediatamente questa radiolina transistor esaurita, fu esaurita in un lampo, in un fulmine, in tutti i negozi americani. Per la prima volta al mondo la radio, quindi le informazioni, la musica e quant'altro, poteva essere trasportata ovunque. Ah, che sogno! E il successo fu talmente travolgente che l'anno successivo la società inglese Pye, mi ricorda qualcosa? Sì, una band, però non è scritta così. Pye o Pay? Quello è Pay, questa è Pye con la Y. Dipende tutto dalle pronunce. Sì. Comunque la Pye mette in commercio la prima radio a transistor, però europea. Sa a nome? Come si chiamava? No. PAM 710. Beh, c'è più carino PM. Di tr. PAM tr. Tr, tr esatto. PAM. PAM 710. Viva la radio transistor! Viva i transistor e viva la radio! Girl, the autumn moon lights my way. sometimes I grow so tired. Stereofonia, Led Zeppelin, Ramble On. È così che ci facciamo perdonare. Da pane, burro e rock and roll. Chiedo scusa all'edicolante di fiducia milanese che ci fa sapere via mail che nel corso dell'esibizione di Noi Possiamo Farcela gli si è svuotato il negozio. Perdonaci, e ci rifaremo. Oh, che vi devo dire, ragazzi? Però voi della prima ora siete molto più gentili di quelli della seconda, eh? Perché quando abbiamo programmato venerdì scorso Noi Possiamo Farcela, i messaggi erano di un altro tenore. Voi, insomma, siete più tranquilli. L'unico è anche peggio di quanto pensavo e basta. Anzi, c'è qualcuno che dice vogliamo anche Sottomarino Giallo, Marco da Milano. Ci penseremo, ragazzi, a farvele risentire tutte. Un saluto a Marco 68, Milano. Aia, si è spento il... In diretta si è spento il lampione crepuscolare. Teniamo duro, ragazzi. Milano, coda, traffico, cielo uggioso. Ma cosa me ne importa? Il 2 novembre andiamo in Africa un mese a prendere il nostro figlio. Adozione, questo è rock. Marco 68, Dutour. Grande Marco. No, basta con questi messaggi. Ma gli abitanti di Matera, allora Materassi. Ciao Simo, ciao. Logopedischi in ascolto, ciao ragazzi. Ma Radio Maria ha sede ad Erba? Ciao Mato. No dai ragazzi, vi prego, smettetela. Salutiamo Ste. Propongo un'ora di storia del rock a settimana a scuola. Ma sai come si cresce meglio? Sai che ne abbiamo qualcuno di professore all'ascolto, eh? Noi giriamo tutte le vostre segnalazioni. Stamattina colazione con pane, burro, rock and roll e marmellata. Di lampioni, ovviamente. Crepuscolari. No, io non ce la posso fare, ragazzi. Vi ho chiesto qualche minuto fa come stavate prima di ascoltare pane, burro e rock and roll. Ce lo confessa il 110. Prima stavamo benissimo, ora guarda come sono conciato. a forza di pane, burro e rock and roll, ho il colesterolo a 358, fumo 40 sigarette e ho anche mollato la scuola a Radio Elettra. Maledetti rocker. Scusateci ragazzi, noi lo facevamo solo pensando di farvi fare una risata così di prima mattina, con tutti i problemi che ci sono. Vabbè, è andata così comunque. Quest'oggi so come iniziare l'angolo dedicato alle cartoline postali. mi chieda di intonarle una canzone. DJ Ariele, sì? Per cortesia, mi vorrebbe intonare una canzone? Oh mia bella Madunina, che te brilli. Perché la tripletta scelta quest'oggi per le cartoline postali è una tripletta milanese. Ah, cartoline. Solo cartoline che arrivano da Milano. Che riguardano la città meneghina. Ovviamente, per rappresentare la città meneghina, secondo lei cosa ci hanno inviato? La Madunina. Madunina, per forza. Partiamo da una vista larga del Duomo di Milano. Ce la manda The Jekyll e scrive: Telchi, la cartolina della Madunina. Te sei content, saluti e buone vacanze. Grazie, spiritosissimo, grazie, ci ha mandato il capolavoro del Duomo di Milano, questa costruzione patrimonio dell'umanità. Passiamo invece a uno zoom vero e proprio solo sulla Madonnina. Questa è la seconda cartolina di quest'oggi. Ciao, recita il retro, mitici Frick e Ariel, non sarà la più originale, ma è sempre una cartolina, no? Lunga vita la cartolina. La cartolina non morirà mai, continuate così, vi ascolto ogni mattina. Grandi, un rocker del 57, Adriano da Milano, non si capisce, vero? Post scriptum, Frick, passi in radio, pesto duro, bye bye, fixiu.it. Ah, bella, bella articolata. Vuole tra accennarle l'altro... pesto duro? Per pesto la... duro, contro il muro, e sta sicuro... Tengo duro, posso aggiungere una cosa? Sì, no, avevo no. I brividi però. Lei mentre canta pensa ad altro. Pesto però. Duro, contro il muro, e sta sicuro, tengo duro. Coro, pesto duro. No, cosa voleva dire all'amico? Volevo dire che non c'è sfuggito la rima, mattina, cartolina. Ah, lui ci ascolta ogni mattina e perciò ci invia la cartolina. Passiamo a questa invece che nella cartolina con la Madunina. Esatto, un'altra cartolina con la Madunina, però questa fa parte di quelle scelte tra le papabili vincitrici, perché è una cartolina che non riusciamo a capire come abbia fatto l'amico Roger, ma sembra fatta da lui. Sì. Perché c'è una Madunina, appunto, del Duomo di Milano, che imbraccia una Gibson SG e sopra c'è il logo di Rock FM, quindi è una cartolina che non credo sia in vendita. No, assolutamente, fatta probabilmente lui. Da Benissimo. Un computer graphic, da un graphic computer, da uno che se ne intende di grafica e di computer. Tra l'altro, sullo fondo, sì. Solo adesso ho individuato un'immagine rock. Decisamente rock. Quel teschio. Sul fondo c'è un teschio con due spade Spadoni, incrociate, esatto. Al posto delle tibie. Tra l'altro, se posso permettermi, sta talmente bene la Gibson sulla Madonnina che io quasi quasi la proporrei proprio nella realtà, anche di imbracciare una chitarra elettrica alla Madonnina. Beh, sarebbe una Andiamo bellissima... Farlo. Le posso dare delle gomitatine d'intesa? Sì. Sarebbe una bellissima... copertina esatto. Per il prossimo disco dovremmo fare, ce la giochiamo, sai cosa dovremmo fare? Noi dovremmo veramente andare sulla Madonnina di Milano e farle imbracciare una chitarra, probabilmente ci arrestano, no. Ma famosi lo diventiamo. Intanto leggiamo cosa c'è scritto dietro. Sì. Luglio 2007, anche questa è datata, mo vediamo se avete il coraggio di dire che da Milano non vi pensa nessuno. I'll see you on the dark side of the moon. Citazione, grandi Pink Floyd. Grazie Roger, grazie a tutti. Grazie a tutti e complimenti a Roger e complimenti a tutti. E beh, che c'è? Ehi Frigo. Sì, Rogna? Senti se va bene il mio discorso. Sono tutto orecchi. Topolini, cavie, combattenti di terra, dell'aria e del mare. Topolini d'Italia e di tutto il mondo, ascoltatemi! L'ora segnata dal destino batte nel cielo a scacchi delle nostre gabbiette! L'ora delle decisioni irrevocabili! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori umani! Scendiamo in campo contro gli uomini e i loro esperimenti selvaggi, tutti a nostre spese! La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti! Formaggio! Ma non era vincere? Beh, forse, ma il formaggio è meglio. Sì, formaggio. Formaggio, vincere il formaggio! Vincere il formaggio, bello, mi piace. Un colpo al cerchio e un colpo alla botte.